Qualcosa non mi va di te, i modi che tu hai, le aglie che ti dai con me, ma per il mio temperamento, il tuo comportamento, veramente, veramente non mi va. Ehi tu, mamma Lu, cosa credi far? Ehi tu, mamma Lu, dove vuoi arrivare? Tu vorresti farmi piangere, sì, vorresti. Invece mi fai ridere, oh quanto mi fai ridere. Tu sei soltanto un mamma mamma lì. Tu sei soltanto un mamma mamma lì. Portandomi a ballare dimentichi che son con te. Ti piace fare il twist, però lo proibisci a me, ma per il mio temperamento, il tuo comportamento, veramente, veramente non mi va. Ehi tu, mamma Lu, cosa credi di far? Ehi tu, mamma Lu, dove vuoi arrivare? Tu vorresti farmi piangere, sì, vorresti farmi piangere, invece mi fai ridere, oh, quando mi fai ridere, tu sei soltanto un mamma mamma Lu. Tu sei soltanto un mamma mamma Lu. Ehi tu, mamma Lu, cosa credi di far? Ehi tu, mamma Lu, dove vuoi arrivare? Tu vorresti farmi piangere, sì, vorresti farmi piangere, invece mi fai ridere, oh quanto mi fai ridere, tu sei soltanto un mamma mamma Lu. Tu sei soltanto un mamma mamma Lu. Un mamma mamma Lu. Un mamma.